Tiriamo avanti grazie alla sensibilità dei cittadini che hanno deciso di versare i tributi direttamente sui conti del comune, ma certo questa situazione pare che sia una situazione molto molto difficile. Da Bologna a Sassari ci sono almeno una decina di procure al lavoro per vedere che cosa sta succedendo riguardo a questa Tributi Italia. Mi fermo qui, il sondaggio: un uomo pubblico può essere giudicato e deve essere giudicato anche per i suoi comportamenti privati? Questo è il sondaggio, votatelo su radio24.it. Eccoci, 8 e 16 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, è il momento di ricominciare una nuova settimana in questo spazio di economia. Soldi e dintorni. Siamo con Deborah Rosciani. Ma guarda un po' che sorpresa. Eccoci qua. Sempre, buongiorno. Sempre si presenta il lunedì, sempre allegra. Questa cosa è molto bella, uno inizia la settimana. Quindi. Che cosa te ne fai? Dei musoni? No, sempre infatti, costantemente arrabbiati. Ti fa molto bene il weekend. Già i temi di cui devo parlare non è che siano il massimo. Dai, alle 8 e un quarto del mattino devo rendere queste pillole abbastanza digeribili. I nostri ospiti che intervengono da te, che in questo momento sono molto contenti. No, non è vero. Il professor Umberto Filotto è una persona molto simpatica, molto competente per i temi di cui parliamo, per cui siamo ben contenti, e mi aiuterà a rendere più digeribile le notizie che vogliamo dare oggi. Parliamo di rapporto banche clienti, caro Alessandro, per cui qua è tutto un programma. C'ho l'elmetto, sì. Anche la divisa serve. Allora, rapporto fra banche e clienti, che è oggetto di continua attenzione da parte nostra, da parte delle associazioni dei consumatori, particolarmente appunto in Italia. Di recente abbiamo avuto una nuova bacchettata dell'Unione Europea, questa di qualche mese fa, perché Bruxelles ritiene che abbiamo i conti correnti più cari del vecchio continente, anche se poi questa è stata un'indagine che è stata duramente contestata dall'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, che dice Bruxelles utilizza per eseguire questi monitoraggi una certa tipologia di conto corrente nella quale appunto noi non ci ritroviamo. Settimana scorsa due notizie hanno attirato la nostra attenzione. La prima, l'apertura di una nuova indagine da parte dell'antitrust sulle commissioni interbancarie e sugli oneri su Bancomat e Pago Bancomat, e magari su questa torneremo nei prossimi giorni, e poi sui nuovi rilievi appunto che sono stati mossi nei confronti dei costi applicati ai prestiti. Pare che anche il credito al consumo in Italia sia più costoso rispetto alla media europea. Ad accendere i riflettori su tale questione è stata prima la Banca d'Italia e poi, qualche giorno più tardi, il direttore generale del Tesoro, Vittorio Grilli, in un'audizione sul credito al consumo in Commissione Finanze della Camera. Allora, come stanno le cose? Soprattutto, alla luce di questo, come è possibile suggerire alle famiglie che sono in procinto di chiedere un prestito quali parametri anche utilizzare? Insomma, come monitorare l'aspetto costi? Questa mattina ci darà qualche indicazione il professor Umberto Filotto, che ho già avuto modo di citare prima, segretario generale di Assofin, che è l'associazione che rappresenta i principali gli operatori finanziari che in Italia operano nei comparti del credito al consumo e del finanziamento immobiliare. Professor Filotto, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per i complimenti di prima. Allora, con lei abbiamo affrontato queste tematiche innumerevoli volte. Abbiamo tante volte ricordato come negli ultimi anni il ricorso al credito al consumo in Italia sia cresciuto in maniera vistosa. Adesso abbiamo una piccola, poi non so quanto la riteniate preoccupante o meno, inversione di tendenza, perché conosciamo le difficoltà economiche in cui molte famiglie si trovano in questo momento, per cui meno reddito disponibile e chiaramente risparmi un po' su tutto, e di conseguenza, anche se ci sarebbe bisogno di fare magari ricorso a qualche prestito, si deve rinunciare anche a questo. Qual è intanto lo stato di salute del settore, professore? Lo stato di salute del settore, anche i primi mesi dell'anno indicano una flessione dei finanziamenti nell'ordine del 12%, significa che le famiglie, nel momento in cui si trovano in una situazione di incertezza, anziché acquistare il televisore piuttosto che l'auto, rimandano l'acquisto e quindi non fanno nemmeno il finanziamento relativo. È un atteggiamento in generale di prudenza che conferma da un lato che gli italiani sono prudenti, dall'altro che il credito al consumo è, come diversamente da quanto ogni tanto si dice, non l'ultima spiaggia di chi non ce la fa più, ma uno strumento per finanziare gli investimenti in beni di consumo. Quando il Ministero dell'Economia dice che gli oneri applicati ai prestiti distribuiti in Italia sono i più alti d'Europa, voi come ricevete appunto questo rilievo? Questa cosa può avere diverse spiegazioni. Allora, la prima, il tasso medio è appunto una media che può essere fatta da cose molto diverse. Provo a essere il più chiaro possibile. Nel credito al consumo, così come in tutti i finanziamenti, quanto più piccolo è l'importo finanziato, tanto più alto il tasso percentuale, perché bastano pochi euro per far schizzare verso l'alto il tasso. Infatti, anche perché, come dire, molto spesso l'istruttoria che deve essere avviata all'interno di una finanziaria è sempre la stessa, è quasi la stessa di quella di un grande prestito? Esattamente, esattamente, proprio così. Allora, che cosa accade? Accade che se il mix di credito al consumo è diverso in Italia rispetto, per esempio, in Germania, perché i finanziamenti sono più piccoli, la media tende a essere più alta. Poi c'è un'altra ragione, ed è che, lo diciamo non solo noi, ma insomma in Italia i costi di sistema, chiamiamoli così, tendono a essere mediamente più alti. Faccio di nuovo un esempio: se io finanzio un'automobile in Germania e il cliente malauguratamente non paga, ho qualche possibilità di rivalermi sull'autovettura. Molto più lungo, molto più costoso, e questi sono costi che evidentemente si pagano. Una terza considerazione: l'Italia non è, dal punto di vista generale, ma soprattutto del credito al consumo, un mercato chiuso, è un mercato dove operano tante banche, operatori internazionali che fanno concorrenza su vari mercati, compresa l'Italia. Se i prezzi sono più alti in Italia di quanto non siano in altri paesi, evidentemente non è perché c'è una situazione di accordi che non starebbero in piedi, ma proprio perché ci sono costi di sistema che sono mediamente più alti. Professor Filotto, Grilli del Ministero dell'Economia sostiene anche che gli elevati oneri applicati ai prestiti appunto distribuiti in Italia sono dovuti anche a una situazione sostanzialmente rigida di compensi di mediazione, e cioè nel nostro sistema operano tanti mediatori creditizi che naturalmente si fanno pagare per offrire questa consulenza e questa distribuzione. Il fatto di trovarsi appunto in una posizione intermedia fra domanda ed offerta chiaramente è una posizione che va remunerata, e tra l'altro questa è una professionalità che si cerca di disciplinare in qualche maniera nel nostro paese, anche proprio per fare in modo che poi, come dire, gli oneri si abbattano un po' meno sui consumatori. Come vede questa situazione? Forse ne abbiamo già parlato in altre occasioni. La riforma della mediazione creditizia dell'Agenzia dei Servizi Finanziari non è mai così tanto urgente e necessaria come oggi. Se ne parla ormai da molto tempo, è assolutamente necessario intervenire. Speriamo che avvenga il più presto possibile, perché comunque, al di là del profilo dei costi, al di là di tanti altri aspetti, si tratta evidentemente di una posizione delicata di un soggetto che si trova a intermediare tra chi offre soldi e chi ha bisogno di soldi, ed è necessario che questa professione importante venga disciplinata molto, in maniera molto puntuale, e speriamo il più presto possibile. Ritornando ai dati che lei ci ha fornito all'inizio sull'andamento del credito al consumo nel paese nei primi 8 mesi di quest'anno, anno molto difficile, anno in cui molte famiglie si sono ritrovate in una condizione finanziaria letteralmente modificata, qualcuno ha perso il posto di lavoro, c'è chi è andato in cassa integrazione per cui meno entrate nel bilancio familiare, è cresciuto a molto come forma di prestito la famosa cessione del quinto dello stipendio. Professor Filotto, come va letta questa tendenza? Ma la cessione del quinto dello stipendio intanto negli ultimi mesi ha cominciato a flettere anch'essa, cioè non è più un prodotto che si sviluppa in maniera veloce. Per la cessione del quinto, come per tutte le altre forme di prestito e più in generale per tutti i servizi finanziari, vale la solita regola d'oro, cioè che è quella di leggere tutto, farsi scrivere tutto, confrontare i prezzi. Sulla cessione del quinto, così come su altre forme di finanziamento, ma forse per la CQS è ancora più vero, le offerte dei vari operatori sono abbastanza differenziate in termini di tassi e condizioni. è indispensabile leggere e confrontare. Il consumatore ha questo strumento potentissimo in mano, che è quello di rifiutare di firmare un contratto di cui non è convinto o convinta e di firmare invece quello che offre condizioni migliori. Bisogna esercitare questo potere. Che fine d'anno vede per il settore del credito al consumo, professor Filotto? Stiamo andando verso il Natale, magari qualcuno sarà tentato, ovviamente, perché a Natale succede, di rifarsi la lavatrice, di rifarsi l'arredamento, magari ipotizzare anche una ristrutturazione della propria abitazione, comprare il televisore nuovo, magari qualche famiglia dovrà rinunciare, qualcuno invece lo farà ugualmente. Un piccolo suggerimento, un piccolo vademecum per approcciarsi al prestito in vista del Natale. Siamo tutti emotivamente in condizioni un po' diverse in questo periodo, in maniera corretta, senza fare errori. Ma il suggerimento che diamo è anche qui abbastanza usuale, consigliamo ai consumatori di andare sul sito www.monitorata.it, è un calcolatore totalmente gratuito e totalmente anonimo, quindi nessuno può poi farvi offerte commerciali, per calcolare la sostenibilità della rata, significa se siete in condizione di ripagare con relativa tranquillità la rata del finanziamento che avete, che state pensando di fare. Quindi prima di verificare se la finanziaria ci dice sì o no a seconda delle nostre caratteristiche reddituali e finanziarie, vediamo appunto, facciamolo noi questo calcolo, giusto? Direi di sì, direi prima, dopo, comunque fare i propri conti, e questo è uno strumento che aiuta a farli. La ringrazio, le auguro buona giornata, a presto professor Filotto. Grazie anche a voi, buona giornata a voi. Alessandro, sì. Eccoci qua. Mercato immobiliare oggi a Salvadanaio, venerdì è stato pubblicato il rapporto Nomis, ma i prezzi continuano a scendere, ma non in tutte le città, qualche città la discesa si è arrestata, c'è qualche segnale di stabilizzazione nel mercato, per cui oggi analizzeremo un po' tutte le città italiane. Ripartiamo da qui dunque, Salvadanaio. Noi ci concentriamo sul sondaggio, ora dopo la pubblicità, vale a dire parliamo di ciò che è pubblico e ciò che è privato per un uomo pubblico, e vi chiediamo: è giusto giudicare un uomo pubblico per i suoi comportamenti privati? Ed è inutile riepilogare quello che è successo e sta succedendo da qualche mese a questa parte. Alle 8:32 minuti, eccoci qua, le notizie in primo piano sono queste. La Svizzera con un referendum dice no alla costruzione di nuovi minareti, cioè le torri da cui i muezzin invitano alla preghiera islamica. Esulta in Italia la Lega con Roberto Castelli che dice ora mettiamo la croce nella bandiera italiana. Sulla mafia Berlusconi dice contro di me attacchi ignobili, se c'è un governo che più di tutti ha fatto della lotta alla mafia uno dei suoi obiettivi più netti e coerenti, questo è il mio. E il senatore Dell'Utri propone una nuova gestione dei pentiti. Per il calcio il Milan vince a Catania 2-0 con doppietta di Huntelaar all'ultimo minuto e sale al secondo posto a 7 lunghezze dall'Inter, che batte la Fiorentina ed è saldamente in testa. Crolla la Juventus a Cagliari, bianconeri battuti 2-0 e ora terzi a 8 lunghezze dall'Inter. E allora eccoci qua alle 8:33 minuti, siamo pronti per il nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Dovete votare su radio24.it o il sole24ore.com. Se invece volete chiamarci per intervenire, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Allora, in principio si può dire fu Noemi e il compleanno di Noemi. Poi da lì è nata un'estate in cui la politica si è molto interrogata anche con termini come escort, vabbè, le veline, ma questo c'erano un po' già. Di recente sono entrate con prepotenza i trans, poi c'è anche la droga. Insomma, oggi ci vogliamo chiedere, ma è giusto secondo voi giudicare un uomo pubblico per i suoi comportamenti privati? Questa è la domanda, bisogna dire che già il 78% dice di sì. Io voglio chiedere innanzitutto a un personaggio che di uomini pubblici ne ha incontrati e ne incontra anche di potenti molti. Bruno Vespa, buongiorno. Buongiorno. Bruno Vespa ha scritto un libro che è di oltre 500 pagine, Donne di cuori, insomma, che sta avendo molto successo, devo dire, edito da Mondadori. È un po' un affresco di quello che nella storia è stato il ruolo, devo dire, predominante, spesso anche molto attivo, delle donne di cuori, per l'appunto. Senta Vespa, innanzitutto glielo chiedo, è giusto andare a guardare anche sotto le lenzuola degli uomini pubblici? Si è fatto nella storia, si fa e si deve fare? Beh, nella storia si è fatto Francia ci hanno provato 40 anni fa Pompidou per coprire uno scandalo suo e della moglie, modificò il codice civile, da allora nessuno più si azzarda a mettere il naso tra le lenzuola, e ce ne sarebbe stato, insomma, perché tutti i presidenti della Repubblica Francese, nessuno escluso, insomma, si sono dati molto, molto da fare. Dipende da che si intende per diciamo privato. Allora, quello che succede nella camera da letto delle persone pubbliche o private, secondo me, deve restare riservato. Se vengono messi, compromessi, diciamo, gli interessi o la sicurezza dello Stato, beh, evidentemente allora la cosa diventa pubblico. Caso Berlusconi è venuto fuori perché una signora ha ritenuto di registrare tutto quello che succedeva nella camera da letto del Presidente del Consiglio. Lui ha detto che non è ricattabile, che non ci sono segreti, e quindi 6 mesi di campagna forse sono eccessivi. Nel caso Marrazzo, se Marrazzo frequenta i transessuali è un problema suo, se diventa un problema di criminalità con ricatti o cose di questo genere, allora diventa un problema pubblico perché diventa un fatto di cronaca nera. Quindi bisogna distinguere, insomma. Mettaram portava a spasso le amanti sugli aerei della sua seconda famiglia, della quale per 30 anni non si è sentito niente, sugli aerei di Stato, con la scorta di Stato, in un alloggio di Stato, e per 30 anni nessuno ha detto niente, soltanto in articolo mortis è venuta fuori la figlia segreta, insomma. Ecco. Non diventa neanche pubblico se quella vicenda poi ha causato anche la reazione che sappiamo di Veronica Lario, che ha portato poi la richiesta di divorzio. Dubbio, non c'è dubbio, quella è una notizia. Se la moglie di Berlusconi sulla quella base fa uno scandalo sui giornali, fa un conseguente richiesta di divorzio, non c'è dubbio che questa sia una notizia, insomma, tacerla sarebbe, insomma, impossibile. C'è da dire che fosse stato scritto un mese dopo, bisognava aggiornare con i trans, perché questi sono entrati per la verità il libro è aggiornato a casa sì, certo, questo sì, però voglio dire è deflagrato poi, sì, no? Certo, non c'è dubbio, io non, francamente, pur vivendo a Roma dai tempi dell'università, francamente non immaginavo che trans fossero così popolari, insomma, ecco, onestamente, come tipo di frequentazione. Allora, tra l'altro io voglio salutare anche Maria Laura Rodotà, buongiorno, nel Corriere della Sera. Maria Laura Rodotà, io sono andata a ripescare quando il 15 settembre, dunque finita quest'estate, lei ha pubblicato una lettera sul Corriere della Sera in cui ha detto, insomma, è dal caso proprio Berlusconi, Noemi, parecchie donne provano un senso di umiliazione collettiva, e dunque forse è il caso, aveva sentito anche diverse storiche, diverse esponenti del femminismo a dire ripartiamo non da esponenti del femminismo. Alcune, Nicoletta Tilieco, per esempio, storica femminista, insomma. Sì. A dire ripartiamo da dove noi donne? Allora c'è questa sensazione di umiliazione collettiva, e da che cosa deriverebbe? Ma la sensazione di umiliazione collettiva viene da un clima culturale in senso lato che è molto, molto misogino, questo io lo dico e lo ridico, nel senso che c'è un modello unico femminile imposto dalla TV, declinato in vari modi, dalla semplice velina all'opinionista più grande e più, diciamo, articolata, che si vede a porta a porta, ma secondo me non è quello il problema, perché questo è un altro tipo di problema, questo non è la figura pubblica, c'è un modello culturale che va oltre le celebrità e le donne visibili, qui c'è un problema di persone che fanno cose nella loro vita privata che potrebbero interferire con i loro comportamenti pubblici, sono due discorsi diversi. Mitterrand, per esempio, ha fatto una cosa molto grave, per cui in una democrazia normale ci si dimette, cioè usa voli di Stato per questioni personali. Silvio Berlusconi, però, insomma, la signora Anne Pangeot, fidanzata di Mitterrand, non gli era stata portata in casa da un imprenditore plurinquisito per storia di droga. Cioè, in Italia siamo molto oltre nelle nostre faccende private dei potenti. E c'è quel plus, lei dice, che insomma rispetto all'estero ci distingue? Sì, che non va mai, secondo me, sottovalutato, perché ho la sensazione, non è italiano, quello che sto per dire è che in Italia abbiamo ormai perso il senso del pazzesco, però da noi succedono cose pazzesche. Su questo ha detto un termine, Bruno Vespa ha parlato di clima misogino, Maria Laura Rodotà, nella storia, e comunque il personaggio pubblico, il politico, ha una certa non so che di misoginia, secondo lei, nel rapporto con la donna, Bruno Vespa? Dire che a Porta a Porta non ci sono soltanto e sempre più raramente delle belle signore che dicono come la pensano, ma tutte le mie inviate, tutte tranne uno, sono donne. Quindi voglio dire, non è che Porta a Porta le donne vengano utilizzate soltanto perché hanno belle gambe, va bene? Quindi tutte le mie inviate sono donne. Quindi le donne, come ho sempre fatto anche da direttore del telegiornale, sono stato il primo a portare il telegiornale delle 13.30 a fare una conduzione totalmente femminile ormai quasi 20 anni fa. Quindi chiarito questo, vorrei dire che Mitterrand, la sua amante storica, la Cresson, dopo averla fatta deputata, dopo averla fatta ministro, l'ha fatta primo ministro, e quando la signora era totalmente incapace di fare quello che era stata chiamata a fare, è stata, diciamo, ricollocata come commissario europeo. Questo non significa che debba essere un esempio, ma insomma, diciamo che lì lo scandalo fu piuttosto contenuto. Quindi questo per qua. Il clima misogeno, ma non lo so francamente, io vedo che le donne si stanno affermando sempre di più nella magistratura, nella medicina, nelle professioni. È vero che la televisione spesso fa un uso improprio delle donne, e a me tutto questo non piace, la stessa Rai certe volte per seguire la televisione commerciale esagera, però non credo che ci sia un clima complessivamente misogino. Neanche nel rapporto tra il potere e la donna? Ma oddio, nel mio libro per la verità quelli che fanno una figuraccia sono gli uomini in genere, insomma, perché anche nella storia, voglio dire, sono state sempre le donne quelle che hanno avuto, salvo casi particolari, che hanno avuto un ruolo abbastanza determinante, e donne, devo dire, molto intelligenti, molto, insomma, da Cleopatra le favorite del re di Francia erano molto meglio, le favorite del re di Francia erano molto meglio delle regine, Cleopatra era una donna che parlava 7 lingue, voglio dire, insomma, quindi non, le donne hanno avuto, nella corte inglese Diana è stata portata, mentre Carlo faceva delle figuracce, anche se poi la beatificazione di Diana, insomma, mi pare ci sia molto da discutere, ma insomma era lei la donna emergente. Nella storia le donne le vedo sempre molto, molto ben collocate. Oggi non c'è dubbio che qualche volta si può avere la sensazione che vengano presentate male o che vengano utilizzate male, o che molte donne purtroppo cerchino delle scorciatoie che delle ragazze assennate non cercherebbero. Su questo, Maria Laura Rodotà, davvero perché ha dato questo tema il senso del pazzesco, cioè un dipinge, insomma, un affresco abbastanza amaro anche della situazione, non si può sempre generalizzare per carità, ma della donna oggi in Italia? Il caso Berlusconi, ahimè, non è nato solo dalle registrazioni della signora Patrizia D'Addario, che fatemelo dire con un certo orgoglio di bandiera Corriere ha pubblicato per primo. Sì. È nato con la strana presenza del Premier a una festa vicino Napoli, al pubblico attacco di sua moglie dopo la partecipazione a questa festa, alle foto pubblicate in vari siti e ormai anche di Berlusconi a Villa Certosa con ragazze in quantità enormi e non vestitissima, con un premier nudo, non lui, ma insomma, cioè, sono successe cose che un tempo si sarebbero definite boccaccesche, ma qui siamo oltre, tra Boccaccio e il fondatore di Playboy Hugh Hefner, non lo so, ma questo, finché siamo qui, voglio dire, gli italiani non l'hanno condannato, non ha spostato un consenso da quello che dicono i sondaggi, alcuni lo ammirano perché a 73 anni è ancora così vispo. Detto questo, i rapporti tra il Premier, i signori che arrivavano con le ragazze, eccetera, che non sono signori specchiati, sono cosa di interesse pubblico, mi viene da pensare. Sulla cosa di Bruno Vespa, invece, vorrei dire una cosa. Il libro sarà senza dubbio interessantissimo, ce n'è un altro di questo genere, più specialistico, di Benedetta Craveri, Amanti e Regine, su questo tipo di storie. Però stiamo sempre parlando di amanti e mogli, cioè di donne che hanno condizionato i potenti attraverso, diciamolo, scorciatoie. Siamo nel 2009, il ruolo nella storia che le donne vorrebbero avere da Angela Merkel in giù è un altro. Dovrebbe essere diverso. La strada maestra, non la scorciatoia. Ripartiamo da qui, tra un attimo, c'è il traffico, devo dire che per ora sempre il 79%, anzi il 78%, aggiornando dice sì, un uomo pubblico deve essere giudicato anche per i suoi comportamenti privati. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, eccoci qua. È giusto giudicare un uomo pubblico per i suoi comportamenti privati? Io vorrei chiedere a Bruno Vespa questo. Quando di recente mi ha molto colpito Fedele Confalonieri in un'intervista ha detto: dopo il caso Noemi, Berlusconi secondo me ha fatto l'errore di andare in TV, visto che insomma lei ne è stato il protagonista, è venuto a porta a parlare di quella vicenda. Secondo lei Berlusconi, insomma, beh, lei ha fatto il suo lavoro ovviamente, ma ha fatto un errore? Doveva... Allora il problema è questo, bisogna guardare le date. Lui è venuto il 5 di maggio. Il 6 di maggio era stato invitato, già prima che ci fosse lo scandalo di Noemi, perché era un mese dal terremoto dell'Aquila, che c'è stato il 6 di aprile. Allora io il 5, ora di pranzo, gli ho telefonato, ho detto: guardi, con tutto questo casotto che sta succedendo, parliamo di terremoto, ma poi parliamo anche di questa roba qui, perché non anticipiamo di un giorno? Abbiamo invertito gli argomenti, poi naturalmente di tutto quello che abbiamo detto sul terremoto tutti sono scordati, di tutto quello che abbiamo detto della signora tutti se ne ricordano, ma la cosa è andata esattamente così, insomma, lui non c'è stato, lui sarebbe dovuto venire il giorno dopo. Ora, annullare una cosa in cui doveva rendere conto del primo mese del terremoto sarebbe stato curioso, parlare di terremoto ignorando tutto quello che era successo sarebbe stato impossibile. Abbiamo anticipato di un giorno, abbiamo parlato prima dei problemi della signora e poi del terremoto. Questo però ha amplificato tutto, ha amplificato tutto, le famose poi 10 domande, capito, di Repubblica. Sì, però voglio dire, i giornali erano pieni di questo, io non capisco perché amplificare significa andare in televisione, voglio dire, i giornali che parlavate con gli altri? Ah, no, beh, questo pagine, sì. Pagine. No, ma gliel'ha detto... La televisione amplifica. Ma gliel'ha detto con Falonieri, ha detto che ha sbagliato, sarà un consiglio... Sarà... Dissentono con Falonieri, è una persona di grande buonsenso e francamente con Falonieri non ricorda le circostanze in cui è andato, quindi dissentono con Falonieri. Per quanto riguarda invece le leggerezze di Berlusconi, ma io nel libro dico che lui ha fatto delle leggerezze enormi a fidarsi di Tarantini, lui dice lui aveva la sedina penale pulita eccetera, però voglio dire che Tarantini a Bari fosse una persona discussa, questo lo si sapeva e quindi avrebbe potuto informarsi meglio. Detto questo, nel libro si dice anche un'altra cosa che finora era rimasta nascosta, che cioè Berlusconi e la moglie da 7 anni erano separati di fatto, cioè c'era un accordo, lui era single da 7 anni, la signora aveva un compagno e il Presidente del Consiglio aveva un'autonoma vita, diciamo, privata, ecco, mettiamola così, quindi senza persone fisse e con una infinita serie di compagne variabili, le compagne di una sera. Mm-hmm. Verosimilmente, su questo sono d'accordo con Veronica, nel patto c'era un patto di discrezione, questo patto di discrezione è venuto fuori, secondo me non tanto con la vicenda di Noemi, che pure ha fatto tanto rumore, anche perché non era una scappatella di nascosto, ma è una cosa assolutamente pubblica, voglio dire, era andato, c'erano decine e decine di persone lì dentro, quindi era impensabile che rimanesse a Casoria, che rimanesse una cosa privata, quanto con la vicenda della Dario, insomma. Questo sì. Che beh, poi il primo ministro ceco vada a casa di Berlusconi al mare e si tolga le mutande, vabbè, questo mi pare un problema suo, insomma, sarebbe stato secondo me complicato, visto che si era all'interno di una casa privata, mi permetto di osservare, dire a Berlusconi: rimettiti subito il costume dal bagno, perché se no ti caccio via. Questo diventa un po' più complicato. Vediamo se Tullio da Como, buongiorno, ci ha chiamato. Tullio, che dice? Buongiorno, senta, io sì, sono d'accordo con l'esito che sta avendo fino adesso, sì, il sondaggio, che anche l'uomo pubblico deve rispondere, cioè che l'uomo, appunto, il pubblico va guardato nel privato. Non c'è privato per il pubblico? Non, esatto, c'è privato. E perché? Soprattutto, secondo me, soprattutto per il politico, ma io ne faccio solo esclusivamente un discorso di coerenza. Voglio dire, se in l'uomo politico, appunto, che fa le leggi in Parlamento, facciamo una legge, facciamo quella sui diritti, sulle leggi sulle convivenze civili, faccio una legge che non concede, al contrario di come è fino adesso sono le leggi in Europa, va, diciamo, non concede nessun diritto, non parifica, diciamo, i diritti tra i, sì, conviventi e le coppie, tra le coppie di fatto e le coppie sposate. E poi nella mia vita privata invece non sono moralmente a posto, diciamo, da quel punto insomma, di vista. Insomma, deve avere una coerenza tra i suoi atti pubblici e la sua vita privata. Esatto, questo... se poi metto in discussione una legge in Parlamento che è restrittiva verso la prostituzione, poi non posso andare con le prostitute. Vabbè, è chiarissimo, dice, deve avere una vita coerente con quello che predica a livello politico, per carità. Maria Laura Rodotà, oggi il Corriere della Sera, anche La Stampa per la Verità, aggiorna sul caso Mussolini Fiore, pare il nuovo tormentone, no? Ci sarebbe questo video che poi tutto se ne parla, è stato offerto anche a Palazzo Chigi, anche qui è stato offerto a Palazzo Chigi il presunto video, che poi non si è ancora capito se questo video c'è o non c'è. Intanto le belle faccione di Alessandra Mussolini e di Roberto Fiore sono da giorni sui giornali. Insomma, esatto, perché a questo punto noi abbiamo fatto, avendo perso ormai il senso del pazzesco, un doppio carpiato, cioè non discutiamo più della vita privata delle persone pubbliche e di come può influenzare il loro comportamento pubblico. Ormai la vita privata delle persone pubbliche viene usata nell'ambito di una guerra tra bande come arma di ricatto, come minaccia, come modo per screditare, insomma. Io non so che abbiano fatto Fiore e la Mussolini, onestamente non me ne può fregare di meno, però certo questa cosa incuriosisce e questa cosa resterà, perché adesso non ci sono neanche più tanto le rivelazioni sulla vita personale quanto delle rivelazioni su delle possibili rivelazioni. Infatti a questo punto Bruno Vespa è fin troppo istituzionale. Porta a porta tratta una serie di cose con una certa compostezza, se Dio vuole. Ormai questa guerra si fa su altri fronti. In che senso? Bruno Vespa, siamo in conclusione, è troppo istituzionale. Lei. Questo lo prendo per un complimento, insomma, perché trattare con le molle certi problemi mi pare molto corretto, visto gli effetti devastanti che può avere nella televisione. Ha ragione Maria Laura Rodotà, qua veramente intanto il danno alla Mussolini e a Fiore è stato fatto, comunque vadano le cose. Questo sì. E questo lascia molto riflettere. Per quanto riguarda l'ascoltatore di prima, io vorrei dire però, Pier Ferdinando Casini è un sostenitore dell'unità della famiglia e vive felicemente con una seconda moglie. Allora, lui stesso mi ha detto che quando gli si dice tiene talmente tanto alla famiglia ad averne due, lui secondo me correttamente risponde: io, i miei valori non cambiano, proprio le sofferenze che io ho passato in questa vicenda mi inducono a dire difendiamo la famiglia. Certo. Berlusconi e la prostituzione. Allora, io non lo so, guardi, onestamente, se Berlusconi, lui dice che non sapeva che la D'Addario era una prostituta, io francamente questo non lo so, mi chiedo, Berlusconi per avere una ragazza nel letto ha bisogno di pagarsela? Tutto qua. Ci fermiamo qui, io ringrazio Maria Laura Rodotà, ringrazio Bruno Vespa, voglio ricordare Donne di Cuori, 2000 anni di amore e potere, lo trovate in libreria, edito da Mondadori e Raieri. Ci fermiamo qua, Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè in regia, votate sul sito che ne pensate del sondaggio, però ora il 79% sempre dice sì, un uomo pubblico anche giudicato dai comportamenti privati. A domani.